locali lungo Tevere, sopravvissuti della fame chimica, anestetici, fiori e liquidi sembrano dare la felicità. In questa notte fuori dal comune ho la mia prima e ultima occasione, l'ultimo sabato fra le persone. E faccio quello che mi capita e un po' mi esercito alla diversità. Che strano posto la terra. Già. Mi nascondo tra gli umani, sviluppando le peggiori abitudini. Mi innamoro di una moto che non so guidare, non è mica la mia astronave. E una paura nasce dentro di me, una terribile sensazione, affezionarmi a tutta questa gente. E rovinare la mia missione e non riuscire a premere il bottone che trasformerà questo pianeta in cenere. Cannoni e chiacchiere. Canzoni e macchine. Bambini e bambole, fabbriche e hotel, e gocce di Chanel. Questa notte fuori dal comune ho la mia prima e ultima occasione, l'ultimo sabato fra le persone. Ehi, faccio quello che mi capita e un po' mi esercito alla diversità. Che strano posto la terra. Ciao.